E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. È una giornata particolarmente convulsa sul fronte italiano. Oggi i mercati hanno fatto respirare un po' di più, sono leggermente deboli a Milano, leggermente positivi a Francoforte. La Russia resta sempre chiusa come listini, ma le dicevo, oggi la giornata è stata più che convulsa soprattutto per quello che riguarda l'Italia. Allora, vediamo anche le ultime notizie che stanno arrivando, perché a questo punto continuano a esserci notizie dalla riunione dei soci della CAI, ossia la compagnia aerea italiana, che l'offerta sarebbe stata ritirata. Le agenzie stanno battendo la notizia in questo momento, quindi se non dovessero esserci smentite, la compagnia aerea italiana, che si era proposta di rilevare una parte di Alitalia, quella presieduta insomma da Roberto Colaninno, sono riuniti in questo momento a Milano. Le agenzie stanno battendo la notizia, noi abbiamo già dato una prima breaking news un'ora e mezza fa, adesso sembrerebbe essere la notizia ufficiale, per cui non capiamo poi cosa accadrà. Adesso cerchiamo anche di capirlo all'Alitalia, ed è l'esito di una giornata assolutamente altalenante per quello che riguarda le trattative. Comunque, adesso partiremo con l'Italia, poi ci occuperemo del Centro Studi Confindustria, che ha detto per la terza volta da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, quindi dal 45 in poi, l'Italia è entrata in recessione, chiuderà l'anno in recessione. Non capitava dal 93, per quello che riguarda il dato più recente. Chiuderemo l'anno con un PIL con il segno meno 0,1, magari no, se così dovesse essere confermato, però è questo lo crede il Centro Studi Confindustria. Sarebbe la terza volta, ripeto, nella storia della Repubblica Italiana. Numerosi commenti: il ministro dell'economia Tremonti, il presidente Confindustria Marcegaglia, il membro del PD Enrico Letta, varie le ipotesi, i motivi di questo rallentamento e anche le soluzioni emerse. Poi parleremo di borsa, della mega operazione finanziaria in Gran Bretagna, per cui in un periodo di difficoltà del mondo finanziario, bancario, assicurativo, c'è anche chi fa acquisti, e poi anche del tavolo, se arriveranno sviluppi da lì, del tavolo che è riniziato tra Confindustria e sindacati per cambiare il modello contrattuale, quindi rivedere gli accordi del 93 dando maggiore spazio alla contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale. E allora abbiate, diciamo, un po' di pazienza e di comprensione per il vostro conduttore che oggi deve farla tutta a braccio in diretta, nel senso che le notizie stanno arrivando in ogni secondo. Cerchiamo di dare un senso a questa giornata su Alitalia. Prima di tutto però, come sempre, il numero per i vostri SMS 349-238-6666, e come sempre anche un rapidissimo sguardo alle principali notizie del giorno. Ovviamente al di là di Alitalia e delle borse, il petrolio ha aperto in rialzo, oggi si è attestato a $100 al barile. La cosa positiva, devo dire, è forse la notizia più positiva di oggi, è che sono iniziati a calare i prezzi anche alla pompa, i prezzi della benzina e del diesel. Per la precisione, l'AGIP ha tagliato di 4 centesimi al litro il prezzo della benzina, portandolo a quota 1,425 euro. Il gasolio è sceso a 1,379 euro. Molto forte invece l'euro, che ha recuperato anche quota 1,44, si è spinto fino al massimo di 1,44,45. Sale il tasso interbancario, il tasso di riferimento interbancario, l'Euribor, al 4,99%, questo come conseguenza della, diciamo, scarsa fiducia che c'è tra banche e banche nel prestarsi soldi, scarsa fiducia che però come conseguenza della crisi dei mutui americani e del fallimento di colossi bancari, scarsa fiducia però che come sempre in questi mesi va a ripercuotersi sui clienti e sulle imprese che nulla hanno avuto a che fare con la montagna di carta che sta sommergendo Wall Street. E infatti l'Euribor è schizzato al 4,99%, è il livello più alto dal dicembre 2000. Ieri i nostri GR vi hanno raccontato della brutta chiusura di borsa, fortissime le perdite anche in America Latina, pochi lo hanno ricordato, ma insomma a San Paolo, che è la più importante borsa dell'America Latina, la borsa brasiliana ha perso il 6,7%, Buenos Aires il 5%, Città del Messico il 4,7%. Questa mattina le borse asiatiche hanno perso, ma non tantissimo, o meglio, a Tokyo un meno 2,2%, ma a Hong Kong è rimasta invariata. C'era stato il timore di un panic selling, come si chiama in gergo, ossia di un panico da vendita, quando le borse asiatiche viaggiavano con cali superiori al 2%. Poi in realtà li hanno mantenuti e non hanno chiuso sui minimi, anche perché poi questa mattina la Banca Centrale Europea ha immesso 40 miliardi di dollari di liquidità coordinata con le altre banche mondiali e anche con la Banca Centrale Svizzera, perché il gruppo bancario che ha più problemi in questo momento in Europa è UBS ed è il colosso svizzero. La Federal Reserve, la banca centrale americana, ha immesso 180 miliardi di liquidità, di prestiti a brevissimo termine, e mentre per quello che riguarda la BCE sono 40 miliardi di dollari immessi. Questo ha fatto anche cambiare segno alle borse europee, che si sono riportate in parità verso le 10:30 di questa mattina. E poi Londra è arrivata a guadagnare oltre l'1,6%. Ancora alle 2 di pomeriggio la Federal Reserve ha immesso liquidità per altri 50 miliardi, hanno aperto in rialzo tutti gli indici americani, adesso il Dow Jones guadagna 0,5 punto percentuale, il Nasdaq lo 0,3, guadagnavano molto di più in apertura, così come le borse europee, che adesso infatti sono di nuovo miste, Parigi perde l'1, Francoforte perde lo 0,3%, Londra perde lo 0,2%, Milano perde l'1,21%, si rischia di chiudere in negativo anche oggi, purtroppo, perché c'era qualche segnale di un rimbalzo. E poi Morgan Stanley sta trattando con la China Investment Corporation, insomma la Cina, i paesi arabi, i paesi del sud-est asiatico si stanno comprando i pezzi più importanti, i gioielli bancari americani. E infatti potrebbe salire la China Investment Corporation al 49%. In Morgan Stanley. Poi ne parleremo oggi, l'ufficializzazione dell'operazione con cui Lloyds hanno comprato Halifax Bank of Scotland, 22 miliardi di dollari l'hanno pagata, ma l'hanno pagata anche poco, perché Halifax Bank of Scotland era in crisi di liquidità, era crollata in borsa e come sempre avviene in questi casi, tra le macerie degli ex colossi finanziari c'è chi trova anche delle occasioni per fare shopping. Poco fa ha parlato anche il presidente americano Bush, sempre sulla crisi dei mutui, ha detto: abbiamo preso misure straordinarie di fronte alle sfide dei mercati finanziari, ci sono ancora serie sfide di fronte a noi. Sentiamo questo passaggio. Le misure adottate dalle banche centrali sono necessarie e importanti e i mercati stanno già reagendo. I nostri mercati finanziari continuano a dover affrontare serie sfide, come hanno dimostrato avvenimenti recenti. La mia amministrazione si sta concentrando per affrontare queste sfide. La popolazione americana può contare sul fatto che continueremo a monitorare la situazione per stabilizzare i mercati e ridare fiducia agli investitori. Il fronte russo è rimasta letteralmente chiusa anche oggi la borsa moscovita. Da inizio anno ha perso il 55%. Ieri il governo aveva, dopo aver erogato un prestito alle banche di 44 miliardi di dollari, avere permesso alle banche di diminuire le riserve obbligatorie, i soldi che devono tenere in cassaforte come elemento di solidità finanziaria, nemmeno oggi la borsa russa è riuscita ad aprire. Il governo Medvedev ha chiesto che il governo stanzi 500 miliardi di rubli a sostegno, sono circa 13 miliardi di euro. Ha detto: speriamo che gli americani superino la crisi. Ma insomma, il propagarsi di questa crisi anche in un'economia come quella moscovita è stato disastroso. Tra l'altro lì c'è la vicenda Gazprom, perché Gazprom è in serissime difficoltà per quello che riguarda il conto economico, rischia il tracollo, è il primo gruppo produttore di gas al mondo, rischia il tracollo finanziario per debiti. Secondo un rapporto diffuso in Russia, sono saliti a 61 miliardi nel 2007 con il rischio di bancarotta. Sì al nuovo patto di Mediobanca sulla governance, ma il voto non è stato unanime. Due piccoli azionisti del gruppo B, soci industriali, avrebbero infatti mosso alcuni rilievi. Comunque è passato il nuovo patto di Mediobanca. Il vicepresidente a fianco di Dieter Ramp sarà Marco Tronchetti Provera. Questa è la vera sorpresa, diciamo, dell'incontro di Mediobanca: Marina Berlusconi nel consiglio di amministrazione e Rampl, che è anche presidente di Unicredit, proprio Unicredit, e Alessandro Profumo si erano messi in mezzo, non gli andava bene la governance di Mediobanca, ha detto: a questo punto, con questo accordo, siamo soddisfatti anche noi. Allora, c'è chi addirittura arriva a farmi in bocca al lupo per questa puntata. Vabbè, dai, abbiamo visto anche giornate in cui c'era il crack Parmat, il crack Cirio, il crollo della bolla, lo scoppio della bolla speculativa di internet, abbiamo visto anche il crollo dell'Argentina anni fa, ci abbiamo fatto il callo. Certo è che è stato un ritorno dall'estate pesantino sul fronte internazionale per quello che riguarda le banche, i colossi bancari americani che saltano per aria, sul fronte nazionale, perché oggi abbiamo sia a questo punto il ritiro dell'offerta della compagnia italiana, sia il dato della Confindustria che indica come quest'anno l'Italia andrà in recessione per la terza volta nella sua storia. Ora, per iniziare anche la puntata in maniera un po' più leggera, si fa per dire, molti di voi chiedono un animale che ci ha accompagnato in queste settimane. Era il mitico gufo, insomma, non usarlo oggi sarebbe stato un oltraggio anche per lui. Che dobbiamo fare? Allora, la trattativa d'Italia, ultima chiamata, chiamata a cui non ha risposto la CAI, perché da quello che si è capito a questo punto è saltata l'offerta della compagnia aerea italiana, nonostante negli ultimi minuti dal leader della CGIL Epifani fosse arrivato l'invito a Colaninno, al presidente della CAI, ad andare avanti perché si è evitato il fallimento. Però quando si è saputo, noi abbiamo fatto anche una breaking news poco dopo le 16, che probabilmente la CAI avrebbe ritirato l'offerta, sono partiti anche degli applausi in via Clerici a Milano, dove erano riunita l'assemblea della compagnia, applausi di manifestanti, piloti e assistenti di volo che erano fuori dal palazzo. Questo nonostante il Presidente del Consiglio si fosse detto non preoccupato mezz'ora fa. I sindacati temporeggiavano, abbiamo solo conferme ufficiose del ritiro dell'offerta. Nella mattinata era successo un po' di tutto, il presidio dei piloti sempre a Milano diceva meglio falliti che con l'offerta della CAI. Appunto alle 16 era stata convocata subito d'urgenza dalla compagnia italiana una riunione a questo punto conclusiva e definitiva. Berlusconi sta dicendo in questo momento: potremmo essere di fronte a un baratro sull'Alitalia. E già in mattinata si era capito che le cose stavano buttando male, la Field CGL parlava di disastro se la CAI non avesse accolto la proposta. Matteoli ha detto oggi: se non firmiamo c'è il fallimento. L'Unione dei Piloti, tra l'altro, ha detto: se la CAI ritira l'offerta noi non fermeremo gli aerei, perché a questo punto la domanda è che cosa capiterà a chi deve volare, al conto economico di Alitalia. A dire il vero, a ora di pranzo si era aperto qualche spiraglio, perché sei sigle sindacali avevano detto l'intesa è vicina, servirebbe un breve negoziato, mentre a Fiumicino si stavano succedendo assemblee spontanee di piloti e delle hostess. Le sei sigle sindacali che ancora si dovevano pronunciare sul piano di salvataggio per l'Italia avevano chiesto un incontro urgente al commissario straordinario Fantozzi. Lo stesso commissario alle 2 di pomeriggio era già partito con l'iter per la cassa integrazione, i primi cassa integrati dall'Italia, 831 piloti per 12 giorni al mese saranno in cassa integrazione, 1380 assistenti di volo per 10 giorni al mese, 2000 dipendenti di terra per 6 giorni al mese. E che qualcosa comunque si stesse per rompere l'avevano capito anche i sindacati, perché in mattinata avevano detto attenzione, se la CAI ritira l'offerta siamo pronti ai sacrifici interni. Non è mai arrivata la controproposta della CAI, quella che attendeva l'ANPAC questa mattina. La CGIL sempre in mattinata ha detto non accettiamo ultimatum, l'offerta della CAI scade il 30 settembre, hanno sbagliato i conti. Questo nonostante il ministro Sacconi si definisse ancora fiducioso, si appellasse ai piloti della CGIL, un esponente del Partito Democratico, Enrico Letta, poi lo sentiremo, aveva detto anche se ci sono molti sacrifici è inevitabile che ci sia un accordo se non si vuole il fallimento. Allora, sì, parleremo anche di Ennio Doris, che oggi ha fatto una conferenza stampa, sto leggendo i vostri messaggi sulla borsa, però restiamo su Alitalia. Alcuni di voi già scrivono, ecco, questo è il fallimento dell'offerta Air France. Ora, non possiamo sempre parlare dell'alternativa Air France, anche perché è di marzo. Che poi i sindacati abbiano pensato che l'offerta promessa dall'allora leader dell'opposizione Berlusconi sarebbe stata migliore di quella dell'Air France e sono rimasti scornati è un dato di fatto. Io ricordo che sempre a marzo ci furono anche centinaia di dipendenti all'Italia che manifestarono per l'offerta del France, perché sembrava da un punto di vista industriale l'unica in grado di garantire comunque una tenuta complessiva. L'offerta che è arrivata poi dai soci industriali non è piaciuta evidentemente ai sindacati, non so bene per quale motivo immaginassero un'offerta molto migliore di quella Air France, come se lavorassero e rappresentassero, diciamo, sindacalmente una società che non perde 1,5 milioni di euro al giorno. Comunque, quella è ormai storia, adesso parliamo del presente e qua si va verso il fallimento, a meno che CAI non si rimangi la parola, a meno che le agenzie non abbiano battuto una stupidata. Ma allora, subito Paola Nania. No, non subito Paola Nania, perché c'è una difficoltà di collegamento telefonico, che è appunto a Palazzo Clerici, dove è ancora riunita la compagnia aerea italiana. Paola, mi senti adesso? Paola? Sì, Sebastiano, allora è appena arrivato il comunicato stampa di compagnia aerea italiana, è arrivato veramente in questo momento, leggo al volo quello che dice il comunicato. L'assemblea di CAI, compagnia aerea italiana, ha deciso all'unanimità di ritirare l'offerta presentata al commissario di Alitalia per l'acquisto di attivi dalla stessa posseduti. Questo dunque è il comunicato stampa che è stato diffuso proprio un minuto fa qui in via Clerici, nel pieno centro di Milano. Quindi è ufficiale a questo punto, se c'è anche la nota stampa, la CAI esce dal gioco, quindi l'offerta, quella di rilevare l'Italia, la Good Company assieme a Air One, non c'è più. E questo potrebbe rappresentare anche un problema per, poi ne parleremo con Gianni Dragoni appena riusciamo a trovarlo, ma potrebbe rappresentare un problema anche per Air One, che di debito non ne aveva pochissimi, veniva ben valutata da questa offerta. C'è chi ha criticato il fatto che Air One venisse valutata quanto all'Italia, pur essendo molto molto più piccola. Ci sono ancora fuori manifestanti, Paolo, è vero che hanno applaudito quando si è sparsa la voce che CAI ritirava l'offerta? Sì, c'erano più o meno una quarantina di dipendenti all'Italia, hanno applaudito nel momento in cui si è diffusa la voce, anche se in quel momento non era stata confermata ufficialmente, si era diffusa la voce che CAI appunto si sarebbe ritirata, hanno applaudito, ci sono stati momenti di tensione, di urla, di slogan ripetuti da parte appunto dei dipendenti di Alitalia che dicevano meglio falliti che, letteralmente cito gli slogan, in mano ai banditi. Questi sono gli slogan che hanno ripetuto per circa un'ora qui davanti a Via Clerici. E allora, da Via Clerici, dove la compagnia italiana ha appena annunciato e confermato ufficialmente il ritiro dell'offerta, ci spostiamo da tutt'altra parte, ossia ci spostiamo alla Magliana, perché mi fanno segno che ci sia qualche problema di collegamento sulla Magliana, evidentemente oggi le linee sono abbastanza intasate, perché ci sono due fronti adesso, c'è un fronte sostanzialmente che riguarda anche i sindacati, perché da quello che stiamo leggendo sono rimasti molto sorpresi anche loro per quello che riguarda il ritiro dell'offerta della CAI, e c'è un fronte che riguarda il ruolo dei sindacati, dei dipendenti, dei lavoratori di Alitalia, perché chiaramente anche da questo punto di vista i dipendenti erano in agitazione, le assemblee erano spontanee, ma forse c'era qualcuno che sperava fino alla fine che la cosa si chiudesse. Allora, Vanessa Colangiuli, non è la Magliana, ho sbagliato io, a Fiumicino, mi senti? Sì, ti sento Sebastiano, buonasera. Allora, prima tu hai avuto un collegamento molto difficoltoso perché c'era e si sentiva una certa tensione. Quanto proseguiranno le assemblee e ne stanno sorgendo di spontanee, di nuove? Guarda, in questo momento no, in realtà la situazione è molto tranquilla, come vi dicevo, rispetto insomma a questa mattina. Anche qui urla e slogan quando è arrivata la notizia del ritiro dell'offerta da parte della CAI. Ho anche ascoltato in particolare degli assistenti di volo, anche per capire appunto qual era il loro stato d'animo dopo questa notizia. Va bene, comunque non si segnalano sospensioni del lavoro spontanee in questo momento? No, in questo momento no, è tutto regolare. Perfetto, almeno speriamo che continui così finché non ci sono nuove iniziative. E allora, da Fiumicino, dove per fortuna non si segnalano problemi, alla sede della FIT CGIL, dove si è tenuta la riunione delle 5 sigle sindacali di categoria più la CGIL, le 6 che non avevano ancora accettato il piano, Francesca Malaguti. Sì, Sebastiano, buonasera. Qui sono ancora presenti sì, i segretari delle 5 sigle di categoria e ci sono le prime reazioni a caldo alla notizia del ritiro dell'offerta CAI. Vi riporterei quella del comandante Fabio Berti, presidente dell'ANPA. Ormai è una star, ospite nostro di Giuseppe esatto. Cruciani, a Porta a Porta, va dappertutto, dimmi. Sì, voce autorevole dei piloti, ha detto non c'è mai stata una trattativa vera. Noi abbiamo provato a fare un negoziato ma non ci è stato concesso, non avevamo nemmeno i documenti necessari. Se non si vuole salvare questa azienda con la CAI lo si dica da subito. Quindi una reazione molto polemica del presidente di ANPAC Berti. Ora i sindacati di categoria assicurano però che i lavoratori sono disposti a sacrifici e a lavorare temporaneamente anche senza stipendio pieno per garantire l'operatività, mentre il commissario Fantozzi cerca nuove soluzioni. Sì, allora, qui bisognerà capire, ma insomma la notizia di pochi minuti fa, vediamo se ce la facciamo durante la puntata, che cosa succede all'operatività dei voli. Ci scrive un ascoltatore che è all'aeroporto di Parigi, che ci sta ascoltando con il PC, figuriamoci, e in biglietteria l'Italia sono sbiancati. Sì, perché molti pensavano che questa fosse una trattativa, un gioco delle parti, un tira e molla per poi arrivare a un'offerta migliorativa, invece la CAI ha fatto saltare il tavolo, cioè nel senso che no, la nostra offerta era quella, ve l'abbiamo spiegato più volte, a questo punto non ci sono più le condizioni. Comunque, Francesca Malaguti, per quello che riguarda poi i prossimi passi, abbiamo visto dichiarazioni di Angeletti sconcertate, è arrivata qualche dichiarazione anche a caldo oltre a quella di Berti? Per ora no, è solamente quella di Vietri, dell'ANPAV, che ha assicurato che loro faranno di tutto per assicurare l'operatività aziendale. Poi un po' di delusione perché non è arrivata nessuna risposta alla controproposta delle sigle dissidenti che ricordiamo era stata inviata alla CAI prima delle 15 insieme a una lettera di accompagnamento. Ecco, una cosa fondamentale che si legge in questa lettera di accompagnamento è che i sindacati accolgono l'offerta di mantenere invariato il salario a fronte di un aumento di produttività, ma ritengono che nella documentazione fornita da CAI non sia garantito tutto ciò, quindi lo spazio ulteriore di negoziato che loro chiedevano, sostengono, è per vedere garantita almeno questa condizione. Sì, mi chiedo poi, ma tu probabilmente non riuscirai a scoprirlo oggi, se non ci sia anche qualcuno che con una mano sulla coscienza non si penta di aver fatto saltare la trattativa Air France. Sentiamo un assistente di volo all'Italia che racconta, dà il suo commento dopo 32 anni di servizio. Succede che continuiamo come sempre a fare il nostro lavoro, gli aeroplani volano regolarmente come avrebbero volato regolarmente in qualunque situazione si fosse prospettata al giorno d'oggi. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro sempre con maggior impegno e contenti di esserci scrollati di dosso un brutto inghippo politico che non avrebbe fatto bene né alla categoria dei piloti, né degli assistenti di volo, né del personale di terra dell'Alitalia, ma probabilmente neanche a tutta l'Italia avrebbe fatto bene, perché avremmo fatto una figura internazionale che non sarebbe stata degna di noi. No, speriamo di non farne una peggiore, aggiungo io, visto che adesso non c'è più l'offerta. E questa mattina, ricordo, la cassa integrazione è già partita, è stata attivata proprio dal commissario straordinario Augusto Fantozzi. Cassa integrazione che riguarda un bel numero di persone, non sono infatti pochissimi i dipendenti all'Italia che la cassa integrazione la faranno per alcuni giorni durante il mese, ma insomma non sono pochissimi i dipendenti coinvolti nella cassa integrazione. Allora, vedremo altre reazioni, vedo molti messaggi che arrivano al 349-238-6666, però insomma cerchiamo adesso di parlare anche del resto della giornata, sempre gli aggiornamenti saranno in corso, cerchiamo di parlare anche della borsa e della giornata che ha visto da un lato i mercati aprire deboli, poi recuperare quando sono intervenute le banche centrali con un grosso piano di liquidità nei confronti del mercato, piano da 40 miliardi per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, di oltre 100 miliardi per quello che riguarda la Federal Reserve. Ho trovato adesso il dato esatto sull'avvio della cassa integrazione di Alitalia, quindi vi chiedo venia. Il dato riguarda chi era operativo sui 34 aerei già messi a terra, quindi 831 piloti saranno in cassa integrazione per 12 giorni al mese, 1380 assistenti di volo saranno in cassa integrazione per 10 giorni al mese e 2000 dipendenti di terra, Z-Service come si chiama a livello formale, saranno messi in cassa integrazione per 6 giorni al mese. Vabbè, parliamo di borsa. Adesso le chiusure sui listini sono state più deboli del previsto, anche perché dopo l'iniezione di liquidità delle banche centrali tutte le borse avevano girato in positivo. Milano meno 0,99, Mibtel meno 1,5, Parigi meno 1%, Francoforte la migliore chiude invariata, Londra meno 0,90, l'America adesso di nuovo positiva più 0,3%. Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, abbiamo detto dell'operazione delle banche centrali che è servita ma solo in parte. Oggi diciamo il petrolio è tornato a $100 al barile con un euro che ha rivisto quota 1,44, riflessi sui titoli energetici. Sì, allora Saipem ha guadagnato il 3,11%, anche se era arrivata a salire fino a più 4,4%, quindi le azioni sono state premiate dalla risalita dei prezzi del greggio, che oggi è tornato vicino ai $100 al barile a metà seduta, ma che poi ha perso di nuovo terreno tornando verso i $96. A premiare le azioni Saipem inoltre ha contribuito la revisione al rialzo della raccomandazione da parte di Unicredit, che ha incrementato il giudizio sul titolo ad acquistare da hold. Quindi a Milano è cresciuta, allora inizialmente cresceva Tenaris, mentre poi ha perso terreno e ha ceduto lo 0,58%, ed Eni ha perso il 4,24%. Questo per quello che riguarda il settore energetico. Sul fronte bancario è stata una giornata di rimonta, poi un po' offuscata dalla chiusura finale, ma insomma il Monte dei Paschi è il miglior titolo oggi dell'S&P MIB, più 3,6%, Mediolanum, adesso sentiremo Ennio Doris, più 2%, e ancora Intesa più 1,90%, UbiBanca più 1,5%. Sì, allora in realtà le banche italiane hanno chiuso negativo sul finale, mentre stamattina il comparto europeo è arrivato a guadagnare oltre il 4%. Allora stamattina le azioni erano state trainate al rialzo dagli interventi appunto delle banche centrali e dei forti acquisti sull'inglese HBOS acquisita da Lloyds. Nel pomeriggio poi invece le azioni sono state penalizzate dal forte calo Wall Street di Morgan Stanley e Goldman Sachs. Comunque in Italia hanno guadagnato terreno MPS, Intesa San Paolo e le altre, mentre Unicredit ha chiuso poi in territorio negativo. Ha ceduto infatti l'1% dopo il ribasso di oltre l'8% di ieri. Infatti Unicredit resta appunto con un calo dell'1% che lo porta sempre a 3,13 euro. Veniamo ai titoli invece peggiori oggi, di nuovo sotto pressione forte Seat, pagine gialle, ormai viaggia sui 7 centesimi per azione, meno 9,7%. Sì, allora le azioni da lunedì hanno perso oltre il 29%. Mamma mia. Allora, secondo gli analisti, il problema è che in un mercato così volatile, nervoso e comunque preoccupato, sono le società con un livello di indebitamento più elevato ad essere penalizzate. In realtà per oggi Massimo Cristofori, che il nuovo direttore finanziario da giugno della società, ha dichiarato che al Sole 24 Ore che non ci sono problemi di tipo finanziario, in particolare non vi è nessuna esposizione nei confronti di Lehman, e ha comunque assicurato che Seat continuerà a perseguire nello sviluppo dei suoi programmi industriali. Secondo qualche operatore in realtà sono le continue voci, il continuo rimarcare sul fatto che Seat ha un alto livello di indebitamento a preoccupare il mercato e quindi ad innescare questa ondata di vendite. Allora, oltre a Seat, male anche Geox, meno 5,4, Parmalat, meno 5,3, Prismia, meno 4,6, Eni, meno 4,2, Unipol, meno 3,7, Telecom, meno 3,4%, Enel, meno 3,4, Terna, meno 3%, Impregilo, meno 2,8, L'Espresso, meno 2,3, come la Banca Popolare di Milano, Fiat perde il 2,1, A2A l'1,9, Atlantia l'1,8 come l'Automatica, 1,5% il calo di Fondiaria Sai, l'1,2 quello di Buzzi, Unicem l'1,1 è il calo di Alleanza, 1% percentuale il calo invece a questo punto di Unicredit, come ricordavamo. Bene, andata oltre il Monte dei Paschi e Intesa, più 90 anche UbiBanca, più 1,5, Snam più 1%, Bulgari più 0,80. Due titoli rapidamente, Geox, pesante il calo, e poi anche Telecom Italia. Sì, allora Geox ha registrato una delle peggiori performance, quindi dell'S&P MIB, cedendo il 5,39%. Allora in realtà non ci sono notizie ufficiali da parte della società, c'è il mercato che teme che l'azienda possa rivedere le prospettive future. A Bax Bank ha tagliato il prezzo obiettivo da 8,1 a 8 euro, ma in realtà ha mantenuto il giudizio comprare. Telecom Italia ha perso il 3,44%, si tratta di realizzi, in quanto il titolo nei giorni scorsi è stato sostenuto dalle speculazioni sull'arrivo di un nuovo socio e sullo scorporo della rete fissa. In realtà però il mercato teme anche che non escano grandi novità dal consiglio di amministrazione del 25 settembre, visto che, secondo voci comunque non confermate, il socio Telefonica non sarebbe pienamente d'accordo né sullo scorporo della rete né sull'ingresso nel capitale di Telecom di nuovi soci, nuovi fondi arabi. Beata Innocenza, ci scrive un ascoltatore, e allora come va l'Italia? Non ne so niente, mi sono appena messo in collegamento. Non va, nel senso che la CAI ha ritirato l'offerta, non c'è più offerta, è partita questa mattina la cassa integrazione per alcuni migliaia di dipendenti, chi la paga? Chiedono alcune, la cassa integrazione la paghiamo noi, come sempre è successo in questo paese quando c'è stata la cassa integrazione guadagni. Poi alcuni di voi ci chiedono, dite cosa ne pensa lei. Cosa ne pensiamo noi è irrilevante. La vicenda dell'Italia l'abbiamo coperta in tutti questi anni. Io ricordo a tutti che se si vuole andare indietro nel tempo, oltre che l'offerta di Air France, vi fu un piano di Mengozzi, l'unico e ultimo piano serio per cedere all'Italia, non diciamo con le braghe già calate, che era un piano del 2002, vide l'avallo e l'appoggio dell'allora ministro dell'economia, attuale ministro Tremonti, fu poi affossato in Parlamento con i voti determinanti della Lega e di Alleanza Nazionale, questo a livello storico, mentre il ministro Tremonti era assolutamente favorevole. Cosa prevedeva quel piano? L'accordo a tre all'Italia, Air France, KLM, ma all'Italia sarebbe entrata come partner forte, cioè era un accordo diciamo tra pari grado. E quello è stata l'ultima possibilità per avere all'Italia che si integrava, per avere un'Italia che si integrasse a livello europeo con una certa dignità. Da allora in poi il gruppo ha sempre perso più soldi e è sempre stato meno appetibile, meno vendibile. Arriveremo a Ennio Doris, devo darvi però alcuni aggiornamenti sulle dichiarazioni. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha parlato poco fa, siamo sul baratro, la colpa della CGIL e dei piloti. Sentiamo al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. La situazione è drammatica, potremmo essere di fronte a un baratro, non voglio fare dichiarazione prima di avere approfondito ciò che ci si prepara. Certo che ci sono delle pesantissime responsabilità, soprattutto da parte di CGIL e dell'associazione piloti, che valuteremo. Non vorrei che questa fosse proprio la soluzione che anche qualcuno ha auspicato che si verificasse. E ha replicato poco fa l'ex ministro e ministro dell'economia del governo Ombra Pierluigi Bersani, ha detto se siamo arrivati fin qui Berlusconi non cerchi colpevoli, il colpevole è lui. Purtroppo questo è l'esito di un'operazione spregiudicata e irresponsabile che il governo ha imposto e ha mal guidato. Bersani ha poi affermato non siamo davanti a un baratro, c'è spazio per evitare il fallimento, è possibile rimettere nel solco la procedura. Credo che il commissario anche attraverso la vendita dei beni non essenziali possa prendersi il breve tempo necessario per creare una gara e sollecitare altre offerte. Il leader della CIS Bonanni ha detto poco fa invece per la responsabilità di pochi pagheranno in molti. La CIS era favorevole a firmare l'accordo come la UIL lo ha sempre dichiarato. Poi adesso dall'Italia torniamo sul mercato dopo questo aggiornamento. Giustamente ci fate notare che oggi il titolo Fiat Risparmio sulle non convertibili ma anche sulle privilegiate ha perso tantissimo, il 10% sulle privilegio e il 13% sulle risparmio. Però obiettivamente non so dirvi in questo momento il motivo. Ennio Doris, dicevamo, ha rassicurato, ha cercato di farlo, la comunità finanziaria e soprattutto i suoi clienti, parlando dell'esposizione nei confronti di Lehman Brothers, ammonta a 160 milioni di euro. Lo ha raccontato in diretta oggi nel nostro GR Extra Large con Simone Spezia e Alessandra Tedesco. Il gruppo Mediolanum non è esposto con Lehman Brothers, né con mutui subprime, né con qualsiasi altro titolo di questo genere, se non per cifre assolutamente insignificanti. E allora perché si parla tanto di voi, Presidente? 60 milioni sono sì. Investimenti che 10.500 clienti nostri su circa 1.100.000 hanno, fra tanti altri investimenti che noi abbiamo suggerito, anche queste obbligazioni di Lehman Brothers. E voglio dire che questi clienti che hanno mediamente a testa circa 15.000 euro investiti in queste obbligazioni hanno oltre 100.000 euro in tanti altri investimenti grazie a questa diversificazione. Non posso dire ancora che cosa faremo prima perché dobbiamo esaminare varie opzioni al nostro interno. Secondo, perché non sappiamo ancora esattamente quelle che saranno le perdite, che immagino ci saranno sicuramente, per gli obbligazionisti. Quindi aspettiamo che si chiarisca la situazione e nel frattempo noi mettiamo a punto quello che faremo. Comunicheremo al mercato quello che avremo deciso di fare nel momento in cui partirà l'azione. Sicuramente penso prima della fine dell'anno, perché alla fine dell'anno scade una piccola tranche che è di una ventina di milioni di euro in questi clienti. Quindi prima di allora sicuramente ci muoveremo. Arriveremo anche alle previsioni del Centro Studi Confindustria. Vorrei però farvi ascoltare alcuni commenti che stanno raccogliendo i nostri colleghi a Roma. Poco fa quello del segretario della CISL, Raffaele Bonanni, commento a caldo quando si è saputo del ritiro della CAI. Si è voluto giocare da parte di taluni alla roulette russa e, come capita spesso, la roulette russa prevede che parte il colpo. Mi dispiace molto che per responsabilità di pochi pagheranno in molti. Spero che questa storia si possa comunque in qualche modo recuperare. Devo sperare, l'unica cosa che devo fare è sperare. E spero appunto che entro la serata ci garantisco ancora uno spiraglio per mantenere in vita un minimo di speranza. Quando il paese assiste a queste cose è un paese che perde la sua coesione e perde anche la sua speranza. Io spero che arriverà il momento in cui ognuno si prende davvero le responsabilità. D'altronde è una debacle della classe dirigente quando ogni cosa è caratterizzata da no e da no. Spero che si apra una stagione dei sì convinti o comunque costruiti nel rispetto ognuno delle opinioni altrui. E intanto arrivano i vostri messaggi di ogni genere, c'è chi ci definisce, dice che stiamo tirando la volata al governo, chi invece dice che dovremmo attaccare di più i piloti, attaccare di più i sindacati, vabbè, nessuno è mai contento. Noi continuiamo a raccontarvi invece la giornata e le dichiarazioni che si stanno susseguendo. Adesso è la volta del segretario della UIL, Luigi Angeletti, anche la UIL favorevole all'accordo con la CAI, favorevole al piano presentato. Siamo di fronte ad una catastrofe sociale per i lavoratori dell'Alitalia, perché purtroppo non si parlerà più nei prossimi giorni della condizione di lavoro, ma del posto di lavoro. E questa è anche una catastrofe sindacale. Questo è anche un aspetto che andrebbe poi visto, perché insomma i due sindacati, CISL e UIL, volevano l'accordo, CGIL no, non gli autonomi. Gianni Dragoni, il Sole 24 Ore, la voce di Radio 24 quando si è parlato di Alitalia in questi anni, vorrei quasi una nota biografica, come ti senti? Ma me l'aspettavo, condannato a dover seguire ancora uno stillicidio di trattative e possibili fallimenti. Si è capito meglio dov'era l'ostacolo, perché oggi le sei sigle avevano fatto una controproposta, cioè dov'è che gli imprenditori già scettici hanno detto basta, non ci stiamo più dentro? Ma, lo spunto formale sul quale tutti si sono trovati d'accordo nell'assemblea della CAI a Milano è stato quello di avere una controproposta sindacale che pretendeva di dettare certe condizioni giudicate incompatibili con il loro piano. Questo si è sposato con dei malumori, dei timori che la compagine, il piano non potesse raggiungere dei risultati soddisfacenti, che le concessioni degli ultimi giorni fossero un po' oltre il limite, e quindi questi malumori poi non hanno più avuto bisogno di emergere perché è stata unanime l'intenzione di ritirare l'offerta. Non è una decisione tattica, ma è una decisione che sembra definitiva, quindi si sono uniti un po', è stato anche un buon assist per porre fine a un'iniziativa che non trovava tutti troppo convinti di riuscire. Sì, perché l'impressione, Gianni, è che al di là delle resistenze sindacali stesse nascendo anche un malcontento dentro la cordata degli imprenditori, erano trapelate anche alcune indiscrezioni. Benetton in un'intervista proprio al Sole 24 Ore già aveva detto vabbè, lo facciamo perché ce l'hanno chiesto, ma l'ipotesi Air France era sicuramente migliore. E questa è questo scetticismo che poi ha prodotto la frattura definitiva? Io ritengo di sì. Dico, non ci sono oggi ancora delle dichiarazioni, delle conferme ufficiali, perché non ce n'è stato bisogno, però qualcuno è andato all'assemblea oggi anche pronto a non approvare l'ultimo piano, l'ultima proposta fatta ai sindacati, e quindi sicuramente questi fatti hanno inciso. Probabilmente qualcuno si è sentito anche sollevato del non doversi imbarcare in un'iniziativa che rischiava, a loro avviso, almeno di essere suicida. Gianni, una battuta, perché poi anche tu devi andare, che cosa capiterà adesso ad Alitalia? Operatività La cassa integrazione è già partita, ma insomma un gruppo può tranquillamente vivere con la cassa integrazione. Ne sanno qualcosa alcuni gruppi industriali, penso alla Fiat di decenni fa. Operatività da un lato e alternative. Ma la cassa è partita per un gruppo ristretto di lavoratori che riguardavano aerei messi a terra da mesi, che quindi forse questa decisione andava presa già molti mesi fa, non era legata alla nuova situazione di difficoltà. Io credo che il commissario, con la scarsa liquidità a disposizione, a questo punto dovrà insieme al governo cercare di verificare se è possibile ottenere delle offerte migliori, perché per ora è stata fatta una trattativa con uno solo, come aveva scelto il governo, anche sul mercato internazionale, chiarendo che può essere offerta solo la parte buona, oppure della compagnia, oppure decidendo delle cose diverse, ma si riapra magari su basi nuove un tentativo di, oppure venga fatta un dialogo con Air France, Lufthansa, perché comunque credo che da lì non si potrà prescindere, certo, al di là della procedura adottata, sì, di mentre cercare di mettere in mani sicure, sì, come stiamo vedendo che accade per l'ex Sabena belga, se la compra la Lufthansa, la Austrian è in vendita e Lufthansa è uno degli offerenti, quindi... Questa non è un salvataggio di Alitalia, soprattutto perché è stato previsto in questa norma che hanno inserito la irresponsabilità degli amministratori. Bravo. Per tutto quello che hanno fatto e che faranno. La prima cosa che deve fare il commissario straordinario è richiedere gli 8 milioni di euro di limitazione che sono stati dati. Noi oggi, proprio perché ancora una volta inascoltati, abbiamo preso atto della proposta ultima che ha fatto il professor Schleisinger e tutti gli altri, che hanno detto che mettere in vendita solo a quella società e a quel gruppo di persone senza mettere in gara per trovare un'alternativa è una violazione della legge, è una violazione della Costituzione, è una violazione del libero mercato, insomma. Così Antonio Di Pietro a Fiumicino, dove si è recato un paio d'ore fa con il megafono, era l'ultimo dei politici che vi facciamo sentire sulla vicenda d'Italia, dopo aver sentito il presidente del Consiglio Berlusconi, il ministro Bersani e Angeletti e Bonanni rispettivamente della UIL e della CISL. Andiamo a chiudere il programma con una buona notizia? Ma sì, dai. Oggi, da oggi, secondo il Centro Studi Confindustria, l'Italia è tecnicamente in recessione, chiuderà il 2008 in recessione, non era mai successo dal 1993. Perché? Perché nel rapporto oggi presentato di fronte al ministro Tremonti, all'ex ministro Letta, al presidente Confindustria Marcegaglia, viene chiaramente detto che il 2008 segnerà meno 0,1%. Questa scheda ci ricorda e ci spiega perché è che cosa, secondo il Centro Studi Confindustria, contribuisce a questo risultato così negativo che, pensate, è successo solo 3 volte da quando esiste la storia della Repubblica. Nominata, temuta e presagita, alla fine la recessione sembrerebbe essere davvero arrivata. Secondo il Centro Studi Confindustria, quest'anno il PIL italiano diminuirà per la terza volta nel dopoguerra, così come era successo nel 1975 con lo shock petrolifero e nel 1993 in piena emergenza finanze pubbliche. Il calo del PIL 2008 sarà quasi impercettibile, meno 0,1%, e già nel 2009 il motore della nostra economia dovrebbe lentamente rimettersi in moto, crescendo dello 0,4%. Questo però nulla toglie alla gravità della crisi, che trova il suo epicentro nella debolezza dei consumi interni, che quest'anno dovrebbero a loro volta diminuire dello 0,1%, segnando la prima flessione dal 93, per poi riprendersi il prossimo anno. Indicazioni migliori arrivano dai dati sui conti pubblici, nonostante una spesa per gli interessi sul debito in aumento, principalmente per le conseguenze della crisi finanziaria mondiale. Il deficit del 2008 è previsto al 2,5% del PIL e nel 2009 dovrebbe scendere al 2,1%. diminuisce lentamente anche il debito, ossia la somma dei deficit accumulati nel corso degli anni. Quest'anno si dovrebbe attestare al 103,7% del PIL, per poi toccare il 102,9% l'anno prossimo. Preoccupa tuttavia l'andamento della spesa pubblica, che quest'anno ha registrato una forte accelerazione, attestandosi a un soffio dal 50% del PIL e che nel 2009 dovrebbe solo lievemente rallentare. Alla luce di queste previsioni, cosa fare per ridare ossigeno alla nostra economia? Il Centro Studi Confindustria fornisce due indicazioni. Da un lato, auspica la diminuzione delle aliquote, compensandola con il recupero dell'evasione fiscale. Dall'altro, invita a procedere spediti sulla strada delle riforme, cominciando da quella del modello contrattuale, su cui si stanno confrontando imprenditori e sindacati. Le reazioni ve le facciamo sentire in rapida sequenza: quella del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, del ministro dell'economia Giulio Tremonti e dell'ex ministro nonché deputato del PD Enrico Letta. La situazione evidentemente è difficile, ma appunto noi pensiamo che il paese possa uscire da questa situazione di non crescita. E ovviamente questo non arriva così, arriva in base, come dicevo prima, a scelte che tutti noi dobbiamo fare, deve fare il governo, le opposizioni, i sindacati, noi per quanto ci compete, e quindi bisogna avere grande responsabilità. Noi auspichiamo che non prevalga in alcuni la logica del tanto peggio, tanto meglio, che non prevalga la logica del tirare a campare, non fare scelte, e di rinviare rinviare le scelte, perché questo fa male a tutti, ma invece prevalga una logica di coraggio, di senso di responsabilità e di fare in modo che davvero questo paese possa smettere di crescere sempre meno degli altri paesi e possa invece riagganciare la crescita quando si presenterà a livello internazionale, senza appunto più meno davanti ai PIL o delta di crescita rispetto ai paesi europei. Si chiude questa puntata. Pochi istanti fa ha parlato l'amministratore delegato di Banca Intesa sul fallimento, cioè sul ritiro dell'offerta. Ha detto è un gran peccato. È stato convocato il commissario straordinario di Alitalia Augusto Fantozzi dall'ENAC per capire come Alitalia a questo punto garantirà l'operatività dei voli. In bocca al lupo a tutti, buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, mi sa che parleremo anche di Alitalia. Radio 24. La passione si sente.